ti scrivo dalla peste di Parigi. I cieli sono bigi, come dice la pubblicità. La gloria viene e va, e io la lascio andare. Ti sembra di volare, poi da capo ti ritrovi là a dire solo ciao. Ciao. Ti scrivo dalla terra di nessuno, in cerca di qualcosa, di qualcuno che non sono più. L'hai detto pure tu, che mi conosco male. Ti sembra di cambiare, ma ogni giorno ti ritrovi là. E allora no, non ci voglio andare giù nel tunnel degli orrori. Sono quasi tutti a bere, ma io ne sono fuori. Come fosse il giorno della prima da una foto di Parigi. I cieli sono grigi, tu sorridi, forse dici cheese. Ma è solo un souvenir, o mi ricordo male. Ti sembra di scherzare, ma è la verità. E allora io ti ho scritto troppe lettere d'amore. Per pudore quasi sempre le ho buttate.